Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi Destini incrociati è in Inghilterra. È il 1970 e un ragazzino di soli 12 anni, in visita con i genitori a Londra, intravede il suo futuro. È solo un sogno, uno di quelli che nessuno immagina si possa realizzare, ma è proprio di sogni che parliamo oggi, di sogni, della loro realizzazione e dell'enorme vuoto che possono lasciare quando si infrangono. È una mattina di primavera del 1970. La famiglia Burrell ha deciso di prendersi una giornata libera per fare una gita fuori porta. I bambini non sono mai stati a Londra. Partono da Grosmoor, dove abitano molto presto. Non vogliono perdersi le poche ore di sole a disposizione. Le giornate non sono ancora così lunghe. Graham, il padre, chiede a sua moglie Beryl di vestire bene i figli, visto che stanno andando nella capitale. I Burrell sono una famiglia molto povera, ma a certe cose ci tengono. Quella mattina l'aria è frizzante. Venire da un piccolo paese di minatori e trovarsi improvvisamente tra i colori e la gente di Londra è elettrizzante. Il primogenito, Paul Burrell, si sta rincorrendo col fratello in St. James Park quando, all'improvviso, sullo sfondo, compare Buckingham Palace. Dove abita la regina, indica il papà e aggiunge scherzando: chissà se in casa. Paul e il fratellino Anthony si buttano sulla cancellata con il viso infilato tra le sbarre. C'è il cambio della guardia, la cosa più incredibile che avessero mai visto, qualcosa di così lontano dalla loro vita nel piccolo paese del Derbyshire. Paul si sente sopraffatto da tanta magnificenza che sente crescere in lui un desiderio. Si rivolge alla mamma ed esclama: un giorno voglio lavorare qui. Come ricorda il padre in un'intervista. Eravamo davanti a Buckingham Palace e ci disse: un giorno lavorerò qui. E dicemmo: certo, tesoro. Ovviamente ci sembrava assurdo. È il sogno di un bambino. Non si può che assecondarlo, per quanto sia irrealizzabile. Una volta tornati a Grosmoor, la vita per i Burrell riprende. Il padre in miniera, come tutti gli uomini del paese, e la madre ad accudire i figli la casa. I soldi sono sempre così pochi che la mamma a volte fa degli extra in casa di alcune famiglie ricche del paese, come donna delle pulizie. Le pulizie sono un rito importantissimo nella famiglia Burrell, rito al quale anche i bambini sono invitati a contribuire. Il lunedì c'è il bucato, il martedì è il giorno degli ottoni e così via. Paul lo fa volentieri, pur di stare vicino alla mamma. Fra l'altro, essere in ordine a lui piace, come ricorda il padre. Faceva le cose che fanno normalmente i bambini. Andava a giocare a pallone dopo la scuola e se si sporcava a volte si metteva a piangere e doveva correre subito a casa a cambiarsi. A scuola Paul è molto bravo. Lui ha l'ambizione di riuscire a fare qualcosa di diverso dagli altri maschi di Grosmoor. La miniera non fa per lui, poca luce e troppa polvere. A 16 anni, dopo essersi diplomato a pieni voti, decide infatti di intraprendere la strada che gli sembra più congeniale alle sue buone maniere e fa richiesta per entrare al High Peak Catering College di Buxton. A settembre del 74 la sua richiesta viene accolta. La scuola prevede 2 anni di pratica nel servizio alberghiero. Non ci sono dubbi, è uno studente modello. Diventa maggiordomo, contabile e cuoco tutto insieme. Vince persino un premio per avere scolpito la guglia ritorta di Chesterfield nella margarina. È un'arte la sua. Finito l'addestramento professionale, al giovane Paul non resta che cercare l'esperienza concreta e comincia così a spedire curricula un po' ovunque, dalle catene alberghiere alle navi da crociera e persino a Buckingham Palace. Quella frase detta alla mamma davanti al palazzo è solo un lontano ricordo, almeno per lui. Lo stesso forse non si può dire per la madre, che memore dell'emozione vista negli occhi del figlio, appena dodicenne quella mattina del 70, un giorno prende una decisione determinante per il suo futuro, come racconta il padre. Arrivarono 2 lettere e le prese sua madre. Una arrivava dalla Cunard e una invece dal palazzo. E lei disse, se si imbarca sulla Cunard non lo vedremo più, meglio se rimane a Londra. Così bruciò la lettera della compagnia navale e tenne solo quella di Buckingham Palace. Nessuno lo disse a Paul fino al giorno del funerale di sua madre. Lei decise per lui. In un certo senso cambiò il suo destino. Il sogno di Paul è quello di partire sulle navi da crociera più famose del mondo, le Cunard. A lui non interessano ancora i fasti dei reali, al contrario della madre, che conserva questo sogno per il suo primogenito. È solo il primo dei cambiamenti di rotta per Paul, che dopo una serie di colloqui a palazzo il 20 dicembre del 1976 entra in servizio a Buckingham Palace. Paul ha solo 18 anni. La sua vita è appena cominciata e subito si trova a fare i conti con quanto di più incredibile si possa immaginare per un ragazzo di umili origini, la famiglia reale. Quando il primo giorno di lavoro si guarda allo specchio vestito in livrea, non gli sembra vero. Il panciotto nero con le righe dorate sul davanti, i pantaloni di velluto rosso stretti sotto al ginocchio con bottoni d'oro, le calze di seta rosa e i guanti bianchi hanno il sapore del passato, anche se per lui rappresentano il futuro. Mentre Paul fa i conti con il suo inizio di carriera come maggiordomo, il pubblico italiano prende confidenza con questo mestiere attraverso una serie TV che va in onda per la prima volta sulla Rai quello stesso anno, Tre nipoti e un maggiordomo. Sì, sono inglese e fiero d'esserlo. Signor French, non hanno fatto apposta. Cosa vuole? Sono bambini. In qualità di domestico più giovane, ed essendo arrivato proprio alla fine di dicembre, spetta a lui la responsabilità, come da tradizione, di annunciare il nuovo anno alla famiglia reale e ha il privilegio di essere il primo membro dello staff a fare gli auguri alla regina. Il 1976 è finito. La nuova vita di Paul è appena cominciata e gli ABBA cantano Dancing Queen, una delle canzoni preferite dalla regina Elisabetta, stando a quanto dice il DJ della BBC, Chris Evans. Il 1977 per Paul comincia sotto i migliori auspici. Di solito nella sua famiglia, il 31 dicembre si fa passare un pezzo di carbone dalla porta d'ingresso in segno di buona fortuna per il nuovo anno. Quell'anno Paul, in qualità di domestico più giovane, ha eseguito il rito dei Windsor. Al 12° rintocco della mezzanotte ha attraversato la sala dove i reali si trovavano riuniti e ha gettato un ciocco di legna sul fuoco. Quando il nuovo ciocco ha cominciato a sfregolare, si è levato l'applauso generale, dando il benvenuto all'anno nuovo e simbolicamente anche al nuovo arrivato. Qualcosa è certamente cambiato per lui. I giorni a palazzo sono pieni di nuove cose da imparare. Comincia ad apprendere l'arte del buon domestico, come vivere nell'ombra, svolgere le proprie mansioni senza farsi notare e sapersi rendere invisibile se necessario. Il 1977 è l'anno del giubileo d'argento per la regina. London celebrates. This is a gala day for young and old. A once in a lifetime spectacle not to be missed. I domestici a palazzo non hanno mai lavorato tanto per organizzare cene, ricevimenti, banchetti. Il 2 giugno di quell'anno, chiunque fosse in servizio da almeno un anno viene onorato con una medaglia d'argento con un nastro bianco. L'unico domestico a non riceverla è Paul, che ha preso servizio da soli 6 mesi. È appena arrivato, ma sente in un certo senso di appartenere a quella vita da sempre. Nell'aprile del 1978 arriva la grande occasione. Uno dei camerieri personali della regina lascia per motivi di salute il posto di lavoro e il capo cameriere John Floyd chiama Paul nel suo ufficio per proporgli di sostituirlo. Dopo soli 16 mesi arriva alla posizione di prestigio più assoluto all'interno della servitù. Paul è uno dei pochi fortunati a vivere fianco a fianco con la regina. Alla fine del 1979, la stampa comincia a fare congetture su un probabile matrimonio reale. Paul è emozionato. Sembra una cosa importante scegliere la principessa per l'erede al trono che ormai si avvia verso i 30 anni e lui la vive da dentro. Le parole di un appena ventenne principe Carlo fanno pensare che le caratteristiche della sua futura sposa debbano essere molto particolari. Nella mia posizione devo sposare qualcuno che forse un giorno sarà regina e quindi devo scegliere con molta attenzione. Qualcuna che possa essere adatta a questo ruolo particolare, perché la gente si aspetta molto da cose di questo genere. Il destino coinvolge anche Paul in questa scelta delicata, anche se gli effetti sulla sua vita li scopriremo solo più avanti. Il primo incontro con l'altra protagonista di oggi avviene un sabato mattina di settembre del 1980 al castello di Balmoral, la residenza estiva dei Windsor, dove Paul, in qualità di cameriere personale della regina, è in servizio al seguito della sovrana. Una giovanissima ragazza vaga alla ricerca della sua stanza. È intenta nel leggere sulle porte le targhette di ottone con i nomi. Paul si offre di aiutarla. È facile perdersi in quel dedalo di corridoi se non si è pratici del luogo. Trovata la sua stanza, la giovane si ritira, ringrazia e molto timidamente chiude la porta. La sua targhetta dice Lady Diana Spencer. Lady Diana Spencer. La porta successiva, Sua Altezza Reale, il Principe di Galles. È la prima volta che Lady Diana alloggia al castello in qualità di ospite del principe Carlo. Questo ha certamente un significato, anche se lei stenta a crederci, come ricorda Mary Robertson, la sua prima cameriera. Lei pensava che non ci fosse nessuna chance per uno sviluppo romantico, perché noi sapevamo che il principe Carlo era alla ricerca di una moglie. Ma lei disse con un tono di grande rimpianto nella sua voce, «No, non penso proprio ci siano chance. Lui ha 31 anni e io solo 19. Non penso che mi guardi seriamente». Le donne che ha frequentato Carlo sino ad allora sono state molte, ma nessuna di queste ha incontrato il favore della regina, che deve dare ovviamente il suo consenso sulla scelta della futura nuora. C'è bisogno di qualcuno di impeccabile, di buona famiglia e possibilmente senza un passato. Diana ricorda perfettamente la prima volta che ha visto Carlo. Sì, sì, ricordo perfettamente. Era il 1977. Carlo venne da noi. Era un amico di mia sorella Sara. E anche Carlo non può dimenticare quel momento. Mi ricordo che pensai fosse molto solare e bella e davvero attraente nei suoi 16 anni. Quel weekend passato a Balmoral trasforma la vita di Diana in una nuova avventura, dando inizio a qualcosa che avrà una ricaduta importante sulla sua vita, su quella del paese e persino su quella di quel giovane maggiordomo che le ha mostrato la sua stanza quel sabato mattina, Paul Burrell. I giornalisti cominciano a braccarla fuori casa. Non è più solo una giovane maestra d'asilo ormai. Lady Diana's London flat laid siege by photographers. Il 24 febbraio del 1981 a Buckingham Palace viene dato l'annuncio ufficiale del suo fidanzamento con Carlo. Il padre di Diana, Edward John Spencer, il conte di Althorp, viene intervistato dalla stampa. I understand that Prince Charles actually asked you for your daughter's hand. Yes, he did. Very nicely. Paul è tra i primi a sapere dell'annuncio del fidanzamento, poiché i programmi della regina quel giorno vengono cambiati con un breve preavviso. Il tè viene anticipato di un'ora e Paul deve apparecchiare per 4. Quando nel corridoio incrocia la giovane coppia mano nella mano, non ci sono più dubbi. Sta per nascere una nuova principessa. Chi è Lady Diana Spencer prima del fidanzamento con il principe Carlo? È la quarta di 5 figli del visconte di Althorp, Edward John Spencer, e di Frances Ruth Burke Roche, viscontessa di Althorp. All'età di soli 6 anni, vive con grande disagio e sofferenza la separazione dei suoi genitori e sviluppa un carattere schivo e quella visione favolistica dell'amore che tanto la farà soffrire. Quando la sua prima tata, Mary Clark, si congratulerà con lei per il matrimonio con Carlo, le ricorderà quel momento difficile della sua infanzia. Quando le scrissi per congratularmi per il suo matrimonio, le ricordai le nostre conversazioni fatte quando era una bambina, dicendole che aveva sposato l'unica persona nel paese dalla quale non poteva divorziare. Perché avendo avuto genitori divorziati, mi diceva sempre che non avrebbe mai e poi mai preso in considerazione di sposarsi, a meno che non fosse stata assolutamente innamorata e a meno che questa persona non lo fosse stata altrettanto. Diana cresce col padre, che ottiene l'affidamento dei figli nella contea del Northamptonshire. Adotta l'aria aperta, la vita libera, odia i vestiti, come racconta sempre la sua tata. Era veramente felice solo con i pantaloni ed una maglietta. Odiava vestirsi, non le piacevano i vestiti. In alcune occasioni sono stata costretta a farle indossare una gonna e una camicia, una tragedia. Era l'unica che mi diceva, ma devo veramente mettere questo? Ma che importa come sono vestita? Tanto nessuno mi guarderà, che importa? La sua timidezza è quella di chi vuole rimanere in disparte a osservare, di chi vuole passare attraverso la vita in punta di piedi e essere in mezzo alle persone che ama, come racconta chi l'ha conosciuta sin da bambina. Diana amava essere al centro dell'attenzione solo se si sentiva a suo agio e conosceva tutte le persone intorno a lei. Lei era estremamente estroversa, era timida solo quando non conosceva le persone che la circondavano. È una bravissima nuotatrice e le piace la danza. Il fisico l'aiuta, è alta, snella, ha le spalle ben dritte a reclamare la sua origine aristocratica e tiene sempre il capo leggermente reclinato in avanti, quasi a chiedere il permesso prima di fare il suo ingresso in qualunque circostanza. Il suo sorriso aperto e gli occhi che osservano l'interlocutore dal basso verso l'alto per via della posizione abbassata del suo viso predispongono all'accoglienza. A scuola è molto brava, è curiosa, attenta, sempre disposta a dare una mano. Quando compie 18 anni, chiede al padre di potersi trasferire in città, a Londra, con delle amiche. Il padre è d'accordo. La vita di campagna per una giovane ragazza come lei ormai non è più adatta. Così le prende un appartamento in Sloane Square. Come tutte le persone appartenenti all'alta società, anche Diana non è immune al desiderio di fare una vita normale, di avere un lavoro normale. Come dice un giornalista inglese. L'alta società a Londra ha una sorta di tradizione di servizio. Si sentono la noblesse oblige ed hanno la tradizione di dover fare qualche lavoro assolutamente normale, sciocco. Nessuno ha dubbi sul fatto che Diana potesse prendere diversi dottorati o master all'università. Invece cosa fa? La sua idea è essere a Londra, incontrare della gente, divertirsi, fare qualcosa di utile e poi sposarsi con qualcuno che conosce. E così fa Diana. Decide di fare la maestra d'asilo, di essere d'aiuto agli altri, silenziosamente. Quando nella sua vita cominciano a irrompere la stampa, i fotografi e i media in generale, ovviamente si deve adeguare. For a girl of 19, it was a difficult time, although perhaps a necessary demonstration of just how great are the pressures of living constantly in the public eye. Il giorno dopo il fidanzamento con il principe Carlo, per Diana comincia una nuova vita, ma allo stesso tempo anche l'inferno. Lei è una ragazza semplice, come racconta l'amica Lana Marks. Lei adorava assolutamente, in maniera naturale, quest'uomo. Bisogna ricordare che quando cominciò questa relazione, lei non era una donna di mondo, era una ragazza di campagna, era dolce, gentile, vecchio stile. Era così felice di fargli piacere. La sua apparizione in pubblico con Carlo è una prova difficilissima. And Lady Diana didn't disappoint those anxious to see her on her first public outing with her prince. His lady had well and truly arrived in a manner few of those present were likely to forget in a hurry. Diana cerca in ogni modo di far vedere al suo principe quanto riesca a essere sofisticata, anche se di abiti non gliene è mai importato nulla. Ce la mette tutta per fare bella figura. Indossa per l'occasione un vestito con le spalle totalmente nude di colore nero. Due grandi errori di protocollo alla sua prima uscita ufficiale. L'amica Lana la giustifica così. Probabilmente ci si aspettava che lei sapesse cosa era giusto fare e cosa non lo era. Ma Diana non conosceva il protocollo reale, non sapeva quello che si doveva fare e fu costretta a impararlo molto velocemente. È ancora troppo presto per sentirsi a suo agio nei panni della futura moglie del principe. Troppo difficile adeguarsi alla folla che si accalca intorno a lei in ogni situazione pubblica, tanto che Diana, appena riesce, cerca di fuggire. Il suo essere schiva, riservata, timida con le persone che non conosce è un atteggiamento del quale spesso è chiamato a rispondere Carlo. It's not much fun, actually, when you're being surrounded by people with very long lenses. Non è molto divertente quando sei circondato da una folla che cerca di raggiungerti ovunque tu vada. E penso che lei si senta ancora estranea a questo, ma imparerà. Spero che quando saremo sposati sarà diverso e che riesca a gestire questo tipo di intensità. Il matrimonio è alle porte. La trasformazione di Lady Diana Spencer nella principessa del Galles avviene il 29 luglio del 1981. Sha-la-la-la-la. It's not the way you smile. That tears me apart. Well, oh, oh, many, many nights roll by. I sit alone at home and cry over you. Destini incrociati. Destini incrociati oggi è a Buckingham Palace. È il 29 luglio del 1981 e Lady Diana Spencer sta per diventare la principessa del Galles. Da quel giorno la sua vita cambia, così come cambierà negli anni a venire quella della monarchia inglese, nonché quella di un giovane maggiordomo impiegato a palazzo, Paul Burrell. Dopo il fidanzamento, Diana si trasferisce a Buckingham Palace. È molto sola, non conosce nessuno lì, i suoi amici e la sua famiglia sono lontani. Anche se non si conviene a una futura principessa, comincia a prendere una certa confidenza con alcuni dei domestici, le uniche persone che vede più di frequente. Diana è diversa, è giovane. Quella solitudine, anche se l'anticamera del coronamento del suo sogno, non le piace granché. Due giorni prima del gran giorno, a Buckingham Palace, viene organizzata una festa per un migliaio di persone. Tutte le teste coronate d'Europa, ambasciatori, alti diplomatici, vescovi e arcivescovi, ministri e capi di governo passati e presenti, tutti insieme accorsi per rendere omaggio alle future nozze reali. Al tavolo di Lady Diana e del principe di Galles c'è la principessa Grace di Monaco, accompagnata dal figlio Alberto. Tra le due donne si crea subito un legame. Grace è la quintessenza della principessa, pur non avendo sangue reale. Anche Diana, con tutte le sue perplessità, ce la può fare. L'ex attrice la rassicura. Come ricorda la sua truccatrice Barbara Daly, la sua preoccupazione per il matrimonio è grande. Lei voleva essere molto bella per il suo matrimonio. Lei voleva sapere esattamente cosa doveva fare, come farlo e come si sarebbe dovuta preparare per il trucco e per quel giorno. Preoccupazioni che potrebbero sembrare quelle di tutte le giovani spose, anche se nel suo caso il suo viso, il suo vestito, la cerimonia intera sarebbero state trasmesse in mondovisione. 750 milioni di spettatori più uno, il valletto di Sua Maestà Paul Burrell, sono davanti alla TV per seguire la carrozza reale con Lady Diana e il padre, il conte Spencer, che si dirigono verso St. Paul. Attraversare la navata di St. Paul sotto braccio al padre con i suoi 7 metri di strascico, tutti gli occhi puntati addosso e poi il fatidico sì. Questo vuol dire diventare principessa. For better, for worse. For better, for worse. For richer, for poorer. For richer, for poorer. In sickness and in health. In sickness and in health. To love and to cherish. To love and to cherish. Till death us do part. Till death us do part. I, Diana Francis. I, Diana Francis. Take thee, Charles Philip Arthur George. Take thee, Philip Charles Arthur George. To my wedded husband. To my wedded husband. Il sogno si è avverato. Sono passati pochi minuti da quando il mondo l'ha vista baciare il principe sul balcone di Buckingham Palace. Dopo una giornata dettata dal protocollo, ora Diana, anzi la principessa Diana, può sentirsi libera. Avvolge il suo strascico su un braccio, si toglie le scarpe color crema e con la grazia di una ballerina attraversa radiosa e sorridente la passatoia rossa del corridoio del palazzo. Appoggiato a una parete in attesa del rientro della regina c'è Paul. Quell'immagine di felicità sul viso della neo principessa non la scorderà mai. Forse è stata l'unica volta in cui l'ha vista veramente felice, sicura di sé, piena di vita, con la tiara di famiglia sul capo. A distanza di circa un anno dalle nozze, il 21 giugno del 1982, nasce il primo figlio. The Royal Highness and her child are both doing well. Lovely baby, really super baby. Looking a bit more human. Il quadro adesso è completo. C'è una principessa, c'è un principe e c'è un erede maschio. Eppure, più il tempo passa, più sembra mancare qualcosa. L'amore non basta. Quell'amore perfetto, assoluto, che la giovane maestra d'asilo ha voluto con tutta se stessa fino ad arrivare all'altare, sembra non essere la carta vincente. Il 1984 è un anno che vede sotto i riflettori per la prima volta anche l'altro protagonista di oggi, Paul Burrell. Il 21 luglio alla St. Mary's Roman Catholic Church di Wrexham, Paul e una domestica di Buckingham Palace, Maria Cosgrove, si sposano. È la prima volta che la regina concede a due membri del personale di sposarsi e rimanere in servizio. Una decisione che contraddice centinaia d'anni di protocollo e che viene così portata alla ribalta dalla stampa nazionale. Delizie e regali per un matrimonio di palazzo, titola News of the World. Amore reale per una coppia di palazzo, urla il Daily Mirror. La vita sentimentale di Paul sta prendendo una buona strada. Quella professionale ormai è già avviata da anni ed è quanto di più incredibile gli sia mai capitato. A settembre di quello stesso anno nasce Harry, il secondo figlio di Diana e Carlo. Da allora comincia per la coppia reale il declino. La motivazione, come dice l'amica Lena, ha un nome. Sentiva che Camilla era tornata fortemente sulla scena. Camilla è un'ex fidanzata di Carlo. Diana è confusa. Per sopportare la tristezza di un marito che rivolge le sue attenzioni altrove, si circonda di confidenti, persone che in qualche modo possono cercare di farla stare bene. Ci sono le amiche di sempre, ma accanto a queste c'è un'astrologa e un'esperta di agopuntura che traduce così quel bisogno. Probabilmente, in qualche modo, noi rappresentavamo quella specie di figura materna che lei aveva sempre voluto e cercato. Tra queste persone c'è anche Maria, la moglie di Paul, il maggiordomo, anche lei diventata mamma da poco. Dapprima sono le confidenze sui bambini a unirle, poi la frequentazione si fa sempre più stretta, finché nasce una vera e propria amicizia. Allo stesso tempo la principessa comincia a affezionarsi anche al marito di Maria, quel ragazzo che l'aveva vista quella prima volta nei corridoi di Balmoral e che era stato così gentile da farle ritrovare la sua camera. Sono una coppia di domestici davvero speciali. Verso la fine del 1986 Diana comincia a fantasticare sull'averli al servizio presso di lei. Il primo settembre del 1987, Paul e Maria Burrell lasciano Buckingham Palace per recarsi a Highgrove, a gestire la casa del principe e della principessa del Galles. Il legame tra i reali e Paul Burrell viene nuovamente riconfermato. Dopo tanti anni con la regina Elisabetta, viene scelto dalla moglie dell'erede al trono. L'11 giugno di quello stesso anno, il popolo del Regno Unito elegge per la terza volta Margaret Thatcher. We're now in Smith Square, Mrs. Thatcher has arrived, and of course now she gets the applause of her supporters as she has done. This is the third time, Mr. Tebbit, to meet her at the door. And a wave. Il primo dicembre dell'87 partono i lavori per la costruzione del tunnel sotto la Manica. Una congiunzione simbolica e reale tra l'isola e il continente. Un legame tra Inghilterra e Francia, che solo 10 anni più tardi riverserà su Paul e Diana un nuovo ingombrante significato. Mentre la sponda francese si avvicina, la coppia reale si allontana sempre più. Camilla è ormai una certezza. Carlo passa più tempo con lei che col resto della sua famiglia. E Diana, che da tutti continua a essere chiamata Lady Di, cerca nella gente un alleato. Comincia infatti a viaggiare da sola, come ambasciatrice della Gran Bretagna. Prende confidenza con le pubbliche relazioni. Si trova bene a contatto con la folla adesso. L'unico calore che sente di avere è quello del suo popolo. Tutti sanno che la principessa è triste. Lei non fa nulla per nasconderlo. Eppure il suo look ormai è impeccabile. Quanta strada ha fatto dalla sua prima apparizione. La gente la ama. Quando la principessa partecipa a qualche evento, accorre il mondo intero. Con lei comincia una visione nuova della monarchia, una monarchia più moderna, più vicina al popolo. Insegna ai suoi figli ad avere una vita normale, a giocare con i figli del maggiordomo. Mentre lei si dedica al sociale, ai malati di AIDS, ai bambini dell'Africa con Madre Teresa e Nelson Mandela, la sua vita familiare è sempre più irrecuperabile. Nell'estate del 1995, Diana chiede a Paul, che ormai è sempre più un assistente personale e non solo un maggiordomo, di organizzare l'intervista alla BBC One, dove decide per la prima volta di parlare apertamente dei problemi con Carlo, pur dicendosi pronta a rimanere al suo posto. Alla domanda del giornalista su cosa ne pensi del suo matrimonio, lei risponde: "Well, there were three of us in this marriage." Siamo in tre in questo matrimonio. È un po' troppo affollato. A dicembre di quello stesso anno, la regina stessa prende in mano la situazione e chiede a Diana di considerare il divorzio. È la prima volta che sulle labbra dei Windsor compare quella parola, divorzio. Destini incrociati è a Londra, al seguito della famiglia reale. È la fine del 1995 e il matrimonio tra Lady Diana e Carlo ormai si avvia verso la sua conclusione, dopo l'intromissione di Camilla. La regina stessa interviene sulla questione chiedendo alla principessa del Galles di prendere in considerazione il divorzio. Divorzio è l'ultima delle parole che Lady Di avrebbe voluto sentir pronunciare dai Windsor. It is announced from Buckingham Palace that with regret the Prince and Princess of Wales have decided to separate. La vita sentimentale per Diana è un inferno ormai. Adesso che ha cominciato a prendere confidenza con il ruolo di Sua Altezza Reale, le viene chiesto di rinunciarvi. Forse il destino ha in serbo dell'altro per lei. Forse è giusto così, pensa. Il sogno della ragazza che sposa il principe e vive per sempre felice e contenta si è infranto da anni. Tutto si risolve il 28 febbraio del 1996. Una lista in ordine alfabetico di 32 coppie divorziate è stata esposta oggi fuori dal tribunale. Sua Altezza Reale il Principe del Galles e Sua Altezza Reale la Principessa del Galles sono gli ultimi. Il documento del divorzio riporta le motivazioni di rottura definitiva per inconciliabili differenze, firmato da entrambi. Per Diana comincia una nuova vita. Lei ormai è un personaggio pubblico, i riflettori sono tutti per lei. Il divorzio forse è un'opportunità per riprendere in mano la sua vita. Come ricorda Paul, che ormai è il suo segretario personale, al momento del divorzio, quando Carlo le dirà che può prendersi quello che vuole, lei avrà idee molto chiare in proposito. Lui disse alla principessa: puoi avere quello che vuoi, cosa vuoi? Il tavolo del salotto? Il servizio da tè d'argento? I regali di matrimonio? La televisione? Quello che vuoi. No, lei disse, io voglio Paul. Quello che ormai si è creato tra Paul e la principessa è un rapporto molto stretto. Sembra essere l'unica persona di cui può fidarsi. Quindi, al momento della divisione dei beni, non ci sono dubbi. Lei vuole potersi tenere Paul. Lei mi chiamava la sua roccia. Il capitano della nave, il terzo occhio, tutte queste cose, tutti questi complimenti erano per supportarmi, perché lei si fidava di me, per ogni cosa. Se per Diana è una nuova vita, lo è anche per Paul. Dopo essere stato per anni al servizio della famiglia reale, adesso è al servizio di Lady Di, che dalla famiglia reale ha divorziato. La loro è una relazione molto intensa. Nessuno può realmente sapere quale sia stato l'impegno del maggiordomo nel servire la sua principessa, come ricorda Maria, la moglie di Paul. Nobody knows just... Nessuno sa cosa ha fatto per la principessa, nessuno. Nemmeno io lo so. Lei disse che nel suo matrimonio erano in tre e noi sappiamo cosa intendesse. Beh, anche nel mio matrimonio eravamo in tre. L'estate del 1997 si avvicina. Al-Fayed, proprietario del prestigioso negozio a Londra Harrods, la invita a passare le vacanze sul suo yacht in Costa Azzurra. A Diana sembra una buona idea. I ragazzi William e Harry sono via. le è appena saltata una vacanza con le amiche. Non avendo altri programmi, decide di accettare. Ad attenderla a bordo c'è il figlio di Al-Fayed, Dodi. Paul rimane a badare alla casa di Kensington. Ogni giorno, però, Diana lo chiama per fargli il resoconto di quello che avviene. È o non è il suo confidente? Gli racconta che i giornalisti la braccano e che per vendicarsi di loro decide di indossare per tutta la vacanza lo stesso costume. Tutto procede senza intoppi, fino alla notizia della morte dell'amico Gianni Versace. Hello, welcome back. These are pictures from Miami, where the fashion designer Gianni Versace has been shot dead outside his villa on the Ocean Drive. È il 22 luglio. Diana partecipa al funerale e siede in chiesa a fianco di Elton John e Sting. È l'assaggio di un triste evento che di lì a poco la vedrà protagonista. Il mese d'agosto passa all'insegna di colpi di scena. Dodi la corteggia e a Diana non sembra dispiacere. Paul a distanza vive la nascita di una nuova speranza per la sua principessa, che si dice felice. Prima di tornare a Londra, dopo più di un mese passato in giro nel Mediterraneo, la nuova coppia che solletica l'interesse della stampa di tutto il mondo fa una sosta a Parigi. Sabato 30 agosto, dopo una piacevole serata, i due escono dall'hotel Ritz e salgono sulla loro Mercedes. Poco dopo mezzanotte, imboccano il tunnel dell'Alma a forte velocità per fuggire ai fotografi, che non smettono di assediarli. Vanno a sbattere contro il 13° pilastro della galleria. La principessa muore all'età di 36 anni. Il mondo intero è sconvolto. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in, and your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend. La sua storia colpisce tutti, fin da quelle immagini del 1981 mentre attraversava la navata di St. Paul per coronare il suo sogno di ragazza, sino alle vicende del divorzio, per arrivare all'epilogo della possibilità di una nuova storia d'amore tragicamente interrotta dalla morte. L'Inghilterra è attonita, la famiglia reale non sa come reagire. Il primo ministro Blair le rende omaggio così. They liked her, they loved her. Piaceva a tutti. Tutti l'amavamo, come una di noi. Lei era la principessa del popolo. Ed è così che rimarrà nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Per sempre. Paul Burrell viene chiamato a Parigi. Deve portare gli abiti che serviranno per vestire la salma. Anch'egli è sconvolto. Parte in tutta fretta e prende con sé il rosario d'avorio di Madre Teresa. Vuole che venga messo in mano alla principessa. Il 6 settembre del 1997 i funerali sono un vero e proprio evento mediatico. Qualcuno dice che con la morte di Lady Di gli inglesi abbiano imparato a piangere in pubblico. Fuori da Kensington Palace, 50 milioni i mazzi di fiori e insieme pensieri, poesie, versi, foto, oggetti per la principessa del popolo. I Windsor si chiudono nel silenzio a Balmoral, la loro residenza estiva. Il fratello Charles Spencer, nell'elogio funebre, la ricorda così, attaccando anche la famiglia reale che col divorzio le aveva tolto il titolo di Sua Altezza Reale. Lei aveva una nobiltà innata, che non dipendeva dal ceto sociale. Questo dimostra come negli ultimi anni non avesse bisogno di alcun titolo nobiliare per continuare a diffondere la sua aura magica. E Paul? Il dolore lo paralizza. La casa condivisa con Diana in quegli anni di servizio, gli anni più intensi nella vita della principessa, è terribilmente vuota ora. I suoi vestiti, le sue cose, tutto parla di lei anche adesso che lei non c'è più. Che ne sarà di lui? Un giorno riceve una grossa busta bianca. All'interno c'è l'abito indossato da Diana il giorno dell'incidente. Deve fare i conti con tutto questo, con la perdita, la tragedia, il sangue, ma anche con le confidenze più intime di Lady Di che nell'ultimo periodo si erano infittite. Di notte cerca il modo per ristabilire un contatto con lei, come ricorda egli stesso. Spesso vagavo per il palazzo di notte, perché non riuscivo a dormire. E così visitavo le stanze della principessa per sentirmi più vicino a lei. Spesso andavo nel suo guardaroba, tra i suoi vestiti, e lì sentivo la sua presenza. Diana è morta. Paul non ha più un ruolo ora. La sua lealtà nei confronti della principessa, però, è riconosciuta da tutti. Il 13 novembre del 1997, la regina lo decora con la Royal Victorian Medal. Dopo qualche mese, viene scelto come membro del Memorial Committee intitolato alla principessa, con la funzione di consigliare lo Stato su come commemorare la vita della principessa. Bene, il suo lavoro sembra avere una nuova dignità. Anche se non è più al fianco della principessa, è comunque impegnato a renderle omaggio. Fino alla notte del 18 gennaio del 2001, quando la squadra investigativa di Scotland Yard arriva nel cuore della notte per arrestarlo. L'accusa è di avere rubato dalla dimora della principessa una quantità infinita di oggetti per un totale di 5 milioni di sterline. Viene prosciolto dall'accusa grazie all'intervento della regina, come ricorda un giornalista del Daily Mirror. Quando la regina è arrivata al processo per deporre, è stato un momento decisivo nella storia della moderna giurisprudenza. Non c'è precedente in un regnante che va a difendere una persona del popolo. Quando Scotland Yard è stata a casa di Paul, ha certamente aperto il vaso di Pandora della famiglia reale. La vita di Paul è decisamente cambiata da allora. La morte della principessa, l'accusa e la sua assoluzione grazie alla regina lo hanno proiettato in una nuova dimensione. Perché la regina sostiene che gli indizi a suo carico non siano sufficienti? Perché vuole proteggere l'uomo che è stato vicino a Diana negli ultimi anni? Quale segreto può nascondere il maggiordomo? Quando il Daily Mirror offre 300.000 sterline a Paul per raccontare la sua esperienza a palazzo, al fianco di Lady Di, lui accetta. È qui che rivelerà la confidenza fattagli dalla principessa di temere per la propria vita, poco prima dell'incidente del tunnel dell'Alma. Da quel colpo giornalistico nasce la seconda vita di Paul Burrell, non più un maggiordomo da 36.000 sterline all'anno, ma il miliardario Paul Burrell, conteso dalle maggiori catene televisive inglesi e americane, intervistato da anchorman e scrittrici di bestseller, nonché autore di vari libri su Lady Di. Eppure, non è questo il segreto che Paul deve custodire. Ma questa è certamente una di quelle questioni che dovrà rimanere per sempre, come vuole la conclusione di una favola che si rispetti, tra la principessa e il suo maggiordomo. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.